Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e buona domenica a tutti. Benvenuti a Magazine 24, rassegna stampa dei settimanali e dei mensili italiani e stranieri. Questa mattina vorrei cominciare con una frase beneaugurante, l'ho trovata su Vanity Fair, la frase è la seguente: preferisco vivere da ottimista e sbagliarmi piuttosto che vivere da pessimista e avere sempre ragione. Devo dire che è un bellissimo programma non solo per la giornata ma anche per i giorni a venire, e la frase viene da Jean-Michel Guenassia, che è autore di un libro che viene così presentato, Io Sartre e il calcio balilla. Il libro si intitola Il club degli incorreggibili ottimisti e per questo appunto c'è questo aforisma iniziale: meglio vivere da ottimisti e sbagliarsi che da pessimisti e aver sempre ragione. Questo è proprio l'attacco del libro di Guenassia. La presentazione del libro è di Vanity Fair, come vi dicevo. Questo scrittore ha delle particolarità perché è un esordiente di 60 anni, quindi non è un giovanissimo scrittore, come dire, ma con questo romanzo ha fatto il colpaccio oltralpe, ci riferisce Marco Missiroli nella sua rubrica su Vanity Fair, perché ha sbancato le librerie, ha sfiorato addirittura il Goncourt, che è un prestigioso premio letterario francese. E la storia che viene raccontata in questo libro è una storia parigina ambientata tra il 1959 e il 1964. Il protagonista è un ragazzino di 12 anni che ha un talento smisurato per il calcio balilla, ma questa non è la sua unica particolarità. Anzi, per far funzionare la trama narrativa molto più utile la sua seconda caratteristica, appunto l'abilità nel conservare le confidenze, nell'essere quindi persona molto riservata. Ma se volete scoprire di più, leggete Vanity Fair, magari seguite il consiglio di Missiroli. Vanity Fair di questa settimana, Il club degli incorreggibili ottimisti. Facciamo invece adesso un passo indietro per, come dire, togliere di torno una diffusissima convinzione popolare che, devo ammettere, era pure la mia finché non ho letto Storica di questo mese. Storica, come sapete, mensile dedicato alle vicende storiche, alle ricostruzioni storiche del National Geographic. La diffusa convinzione è che gli imperatori romani usassero il cosiddetto pollice verso, cioè mostrassero il pugno col pollice all'ingiù, per condannare i gladiatori che venivano sconfitti nell'arena. Credo che, come me, molti degli ascoltatori siano convinti che questo fosse davvero il modo con cui si decideva se il gladiatore sconfitto doveva morire o invece doveva sopravvivere. Ebbene, Storica ci spiega nella sua rubrica Risposte dalla Storia che non è esattamente così, anzi probabilmente non è proprio vero. Leggo dalle pagine di Storica: non è certo che esistesse una prassi del genere negli spettacoli gladiatori. Tutto in realtà è nato da un famoso quadro di Jean-Léon Gérôme, un quadro del 1872, quindi ben più in là delle vicende di cui ci stiamo occupando, intitolato Pollice Verso, in cui si vede compiere questo gesto. Però le fonti storiche dell'epoca non ci danno significativi riscontri. Secondo alcuni, il termine versus si può intendere come rivolto a, quindi vuol dire che il pollice sarebbe stato sì puntato, ma contro il gladiatore perdente. Altri ancora sostengono che la sentenza di morte sarebbe stata data al contrario, con il pollice in alto o magari tenendo addirittura il palmo della mano aperta. Hanno poi trovato in Francia un medaglione del III secolo che indica tutta un'altra prassi. Dice: se l'imperatore intendeva risparmiare la vita dello sconfitto, metteva il pollice dentro il pugno chiuso dell'altra mano, proprio a simboleggiare in questo modo una spada che viene inguainata, che viene riposta, e quindi il gladiatore doveva avere salva la vita. Con il che se ne deduce che il pollice verso, immortalato poi in moltissimi film americani e non solo, ambientati appunto nell'epoca romana, beh, sarebbe una nostra convinzione tardiva e soprattutto sbagliata. Restiamo su Storica perché questo mese approfittando anche delle nuove tecnologie, possiamo farvi sentire qualche cosa di davvero particolare che viene proprio dal sito di Storica. La domanda da cui si parte è questa: gli antichi conoscevano la musica, erano in grado di scrivere la musica, quindi poi di eseguire la musica magari scritta da un altro? La risposta è sì, la scrittura della musica è antichissima. Tra l'altro, in questo articolo di Maurizio Lanza si legge che il più antico reperto di trascrizione musicale risale alla metà del secondo millennio avanti Cristo, quindi da moltissimo siamo in grado di scrivere e di trascrivere musica. Questo reperto, che è il più antico ritrovato, è battezzato come il reperto degli inni di Ugarit, sono stati ritrovati in Siria, tramandano una musica sacra che è stata trascritta in caratteri cuneiformi su una tavoletta di terracotta. Abbiamo un po' più di testimonianze per quanto riguarda la musica degli antichi greci. Anzi, per la musica degli antichi greci, grazie alla passione degli storici, siamo addirittura in grado di farvi ascoltare un piccolo brano di una canzone che potrebbe avere, diciamo, più di 2000 anni. Ecco, così suonava, o almeno pensiamo suonasse, un brano musicale dell'antica Grecia. La ricostruzione è dovuta a Roberto Melini, che insegna archeologia musicale al Conservatorio dell'Università di Trento. Tra l'altro gira anche in Italia, ci avvisano da Storica, con conferenze e concerto proprio sulle musiche dell'antichità. Spiega Melini che grazie ad alcuni reperti che sono stati decifrati proprio come testi musicali, annotazioni di brani, siamo in grado di capire quali note venivano suonate e come. Questo rende possibile appunto quello che avete appena ascoltato, cioè capire come suonavano, che tipo di armonie, di melodie venivano suonate. Spiega sempre Melini che i greci poi avevano delle particolarità nell'indicare le note. Curioso sapere che i greci impiegavano le lettere dell'alfabeto, che è esattamente quello che fanno ancora adesso i popoli anglosassoni, cioè gli inglesi, gli americani utilizzano normalmente le lettere dell'alfabeto al posto del nostro do, re, mi, eccetera. Alcuni segni grafici poi completavano la trascrizione. Ci parlano molti testi di filosofi e di musicografi dell'epoca, ci parlano della teoria musicale, e sappiamo anche che l'universo musicale greco aveva 67 note. Noi complessivamente, contando anche i diesis, ne abbiamo 12, ne contiamo, ne riconosciamo 12, ma perché loro arrivavano a 67? Perché suddividevano i suoni anche per i quarti di tono e non solo per i semitoni. Questa è una precisazione che accontenterà gli ascoltatori più avvezzi nel comprendere di musica, ma il senso è che tra il do e il do diesis, per capirci, i greci riconoscevano una terza nota intermedia che invece noi adesso non sentiamo il bisogno normalmente di trascrivere. Abbiamo poi addirittura 61 frammenti di notazioni musicali che sono riconducibili al mondo greco e di cui disponiamo, quindi potremmo anche farvi sentire un catalogo più completo, ma per questo vi rimandiamo proprio al sito www.storicang.it, cliccando poi su approfondimenti, così come consiglia la rivista. Un'ultima cosa che vi voglio segnalare da questo interessantissimo articolo dedicato alla musica dell'antichità è che a volte, come spiega lo stesso Roberto Melini, ci sono dei frammenti musicali che hanno delle indicazioni sia sugli autori sia sulle modalità di esecuzioni. Il fatto che questi frammenti poi facciano riferimento a strumenti a corda, come era la lira, conferma che c'era un elevato livello di conoscenza della musica, perché lo strumento a corda non solo è tecnologicamente più evoluto, ma per la sua necessità di essere accordato, portato a produrre una serie di suoni coerenti, ha bisogno che ci sia un impianto di teoria musicale già sviluppato. Tutto questo su Storica di questo mese. E allora passiamo dalla musica dell'antichità a una musica decisamente più vicina a noi, una segnalazione da 7 che avete trovato con il Corriere della Sera, che trovate con il Corriere della Sera, le canzoni di De André. C'è stato uno studioso che si è dedicato a ricostruire i significati, i motivi, gli spunti da cui partivano le canzoni di Fabrizio De André. Lo studioso si chiama Walter Pistarini, viene segnalato nella rubrica Mix di 7. Vi segnalo la scoperta che lui stesso definisce più interessante. Dice: la canzone Don Raffaele, ricorderete quella del brigadiero del carcere, come appunto dice lo stesso verso, non è solo un pezzo sulla vita del boss Raffaele Cutolo, come molti invece credono. L'idea venne a De André leggendo Gli alunni del tempo, che è un romanzo di Giuseppe Marotta degli anni 60, in cui si ritrova appunto il personaggio del brigadiere Pasquale Cafiero, e poi così via con altre indicazioni preziose, altre rivelazioni in qualche modo sulle canzoni di De André. Tutto questo che poi è stato raccolto da Walter Pistarini ed è confluito in un libro, si intitola Il libro del mondo, ce lo segnala 7 in edicola con il Corriere della Sera. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Voglio parlarvi un po' di lavoro, ma per invitarvi, come dicevo, uno slogan di qualche decennio fa, a lavorare meno. Lavorare meno è meglio. Non era esattamente così lo slogan di cui avevo memoria io. Ma il contributo viene da Monica Marelli, lo trovate su Grazia di questa settimana. Il titolo dell'articolo è proprio Slow Job, come lavorare meno e meglio. Il primo passo, avvisa il sottotitolo, è combattere la noia, il secondo imparare a dire di no, il terzo non perdere tempo nei dettagli. Ma il workaholismo si supera anche cambiando la dieta, poi vedremo meglio cosa sta a indicare questa parola, e provando a dividere l'ufficio con il marito. Qui l'indicazione può essere naturalmente anche virata con l'altro genere, quindi dividere l'ufficio con la moglie. Allora vediamo un po', perché l'articolo è abbastanza complesso, prende in esame, diciamo, sia questa che è una vera e propria malattia di dipendenza dal lavoro, da lì appunto il termine che è coniato prima in inglese e poi malamente tradotto in italiano workaholismo, cioè proprio una dipendenza dal lavoro quasi come una dipendenza dall'alcol. E nell'articolo innanzitutto si lancia l'allarme su questo che sembra essere un modo di affrontare il lavoro sempre più diffuso. E la dipendenza dal lavoro, dice infatti Monica Marelli, pare essere il nuovo problema di un mondo che viaggia sempre più rapidamente grazie alla tecnologia. Tecnologia che ci ha liberato da mansioni ripetitive, ma non ci ha regalato il tempo che ci ha fatto guadagnare. Anzi, le ore sono adesso paradossalmente riempite da infiniti altri compiti da svolgere in ufficio. Insomma, siamo nell'epoca del workaholism, parola che unisce i termini lavoro e alcolismo e indica tutti quei sintomi di disagio, ansia, inquietudine che ci assalgono quando usciamo dall'ufficio, proprio come accade in una crisi di astinenza. La conseguenza è che si tende a lavorare incessantemente senza darsi pause, al di là delle richieste e delle necessità reali. Ora, io immagino che, come per me, anche molti ascoltatori, come accade a me, dicano: beh, non è che poi uno debba farsi venire l'ansia quando finalmente riesce a uscire dall'ufficio, però probabilmente prima di arrivare alla patologia, cioè proprio al malessere, c'è effettivamente, anche grazie agli strumenti più avanzati di cui disponiamo, dal telefonino ai computer eccetera, c'è la tendenza a lavorare troppo o comunque a occupare molto di quello che una volta era il tempo libero con attività che alla fine hanno a che fare con il lavoro. Dice Monica Marelli che alcune professioni sono più a rischio, che gli uomini dimostrano più tendenza alla depressione lavorativa se sono artigiani, se sono impiegati nel mondo dello spettacolo, nei media o nello sport. Le donne sembrano in generale più resistenti, però si scoprono più fragili se hanno professioni che le mettono a contatto con delle situazioni difficili, cioè come può accadere alle infermiere o a chi si occupa dei servizi sociali. Tutto dipende, dicono gli psicologi, da come si bilanciano le aspettative e il controllo. Se le prime, cioè le aspettative, sono troppo alte e il controllo è insufficiente, si rischia di andare in crisi. Però ci sono ricerche che confermano che amare quello che si fa senza eccessi è possibile, basta lavorare meno. Questo è un auspicio che forse molti possono condividere. Ci sono anche dei dati, delle classifiche che ci segnalano come gli Stati Uniti sono il paese che risulta con più ore lavorative all'anno, 1804, noi siamo in realtà a 1802, quindi siamo vicinissimi agli Stati Uniti. E un businessman, un uomo d'affari di successo che si chiama Steven Robbins, ha scritto un libro addirittura per evitare questo eccesso di lavoro, 9 passi per lavorare meno e rendere di più, e consiglia soprattutto di non rimanere mai a non far niente. Ogni giorno deve essere denso di obiettivi, perché la noia è nemica della velocità di pensiero. Fare tutto con passione, compresi i compiti più banali, e questo fa evitare gli errori che poi portano a dover rifare, quindi a trattenere ancora di più in ufficio. Ma un altro trucco importante che viene consigliato appunto per evitare l'eccesso di carico lavorativo è imparare a dire di no. No a chi fa perdere minuti preziosi, no ai piccoli problemi che distraggono, no alle riunioni inutili, e guardarsi poi da un falso mito: non è vero che si impara molto dagli sbagli, i successi in realtà ci migliorano molto di più, quindi meglio stare concentrati, cercare di commettere pochi errori se si vuole stare meno in ufficio. Ci sono poi delle indicazioni, diciamo, per chi non riesce a staccarsi dal posto di lavoro. Si dice appunto in un box che accompagna l'articolo: ma se l'ufficio fosse soltanto una fuga? C'è una società, la Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive, che ha segnalato come la dipendenza da lavoro sembri interessare un lavoratore su 4. Certo, in questo periodo in cui trovare un lavoro, mantenere un lavoro non è facile, è evidente che le aspettative sul lavoro possono anche avere tutt'altri significati, ma restiamo agli aspetti invece più disturbano, cioè all'eccesso, al volersi sovraccaricare di lavoro. Chi sono i più predisposti? Di solito le motivazioni che portano a questo tipo di disturbo, cioè a questo sovraccarico, sono motivazioni interne all'individuo. Chi investe tutto sulla professione e non ha poi molti altri interessi rischia di assomigliare al mitico ragionier Fantozzi. Si tratta, secondo gli psicologi, di persone compiacenti, ma insieme allo stesso tempo molto molto severe con se stesse. Sono due caratteristiche che messe insieme rendono più probabile una caduta nella dipendenza. Dipendenza da lavoro che colpisce a qualsiasi livello gerarchico, non è necessario avere un posto di particolare responsabilità, tendenzialmente colpisce, è sempre il parere degli psicologi, tutte le tipologie professionali. Attenzione ai primi campanelli d'allarme: si comincia a stare più tempo in ufficio nel corso della settimana, si tende a lavorare anche nel fine settimana, sottraendo momenti prima dedicati alla famiglia o agli interessi personali. La domanda rivelatrice di questa malattia: basta chiedere come stai. Se il workaholic, insomma il dipendente da lavoro, il lavoro dipendente, risponde elencando una lunga lista di cose da fare in ufficio a questa normalissima domanda, come stai, beh, allora siamo già in una fase critica. Addirittura l'unico motivo per cui si dovrebbe o potrebbe essere utile aumentare la dipendenza da lavoro è che, secondo una ricerca che hanno condotto a Colonia in Germania, se si vuole smettere di fumare è più facile farlo restando più a lungo in ufficio. Forse in realtà il binomio finale tra dipendenza dalla nicotina, dipendenza dal tabacco e dipendenza dal lavoro non è felicissimo, ma è davvero l'unico motivo per cui si può trovare, diciamo, un sollievo, un aiuto nel trattenersi in modo eccessivo, nel dedicarsi in modo eccessivo al lavoro, che può diventare, appunto, come abbiamo sentito, anche per certi versi una malattia. Restiamo sul lavoro, ma in modo non patologico, in modo più normale, perché vi voglio segnalare due cose relative al Sole 24 Ore. La prima è che con il Sole 24 Ore in edicola già trovate il nuovo numero dell'Impresa, che è la rivista italiana di management e che si occupa appunto di gestione delle persone, di gestione delle risorse che ci sono nell'impresa, e quindi è un discorso che calza perfettamente con tutto quanto abbiamo letto finora da Grazia. PMI allo specchio è il titolo dell'articolo principale di questo numero, è dedicato proprio alle alle piccole e medie imprese, che poi sono la stragrande maggioranza delle imprese italiane. E da domani vi segnalo che proprio alle piccole e medie imprese sarà dedicata gran parte del nostro Sole 24 Ore, del nostro quotidiano in edicola domani. Tutti i lunedì ci sarà, partendo da domani, un restyling, un ripensamento del nostro quotidiano, per offrire appunto un giornale sempre più utile, sempre più attento a queste aziende, che sono la stragrande maggioranza delle nostre aziende, sono quelle da cui poi dipende anche complessivamente il nostro benessere. Le novità le potrete vedere domani in edicola con il Sole 24 Ore. Voglio tornare su Storica per segnalarvi un'ultima cosa in questi pochissimi minuti che ormai ci avanzano. Il modo di scrivere gli SMS spesso fa inorridire, specialmente quando ci si confronta tra generazioni diverse, diciamo così, in modo elegante. I più giovani amano le abbreviazioni, magari persone non più così giovani non sopportano di vedere scritto X e accentato per dire perché, o altre cose, o altre amenità di questo tipo. Bene, bisogna però darsi, se siete della seconda tribù, una regolata, perché non è cominciata con gli SMS questa mania. Leggo su Storica di questo mese che già nel 1800 c'erano dei signori, degli intellettuali, che si scrivevano con un amplissimo uso di abbreviazioni. Ad esempio scrivevano I wrote, poi numero 2, poi lettera U, lettera B e numero 4. Che poi vuol dire ti ho scritto prima, I wrote to you before, in inglese, un po' come poi è successo in certe canzoni di Prince, che ha usato le stesse abbreviazioni. E non si fermavano qui, perché non so, scrivevano lettera M, lettera T e poi la parola head, testa, per dire testa vuota, perché leggendo empty, appunto empty, vi diventa testa vuota. Allora, gli SMS e le abbreviazioni che magari fanno inorridire qualcuno di noi non le hanno inventate i giovanissimi, sono in realtà già esistite, le hanno già sperimentate molto prima dei telefonini. Con questa segnalazione si conclude anche la puntata di oggi. Io ringrazio Paolo Corleoni questa mattina in regia, grazie anche ad Anita Panizza, che come sempre mi ha aiutato a preparare questo programma. Magazine 24 ritorna sabato prossimo. Buona domenica a tutti.